Sonne über dem Marsch der roten Kolonne. Sande Gesänge geht in zur Sonne über dem Marsch der roten Kolonne. Land, sei bereit, vorwärts die Zeit. Land, sei bereit, vorwärts die Zeit. O Land der Länder, brich auf und stürme, tritt in den Sturm, das quando l'oscuro crinale dormiente non giacerà più come boscosa sagoma a segnare i confini del cielo, quando gabbiani, corvi, falchi e spravieri di merlo in merlo si inchineranno al cospetto dell'aquila, quando Dio Marte solleverà da terra colonne di tempesta avviluppate in ioniche volute, quando l'amore per ciò che ci appartiene e ciò che siamo rianimerà ancestrale orgoglio sopito dall'ignavia e dall'accidia di anime miotrofiche svendute alla legge del fango. Allora risorgerà l'impero. altro provare questo ardor. Lo batteremo, resisteremo, sacrificheremo la mente di cuor. D'ogni sorte, fino alla morte, spenderà tutto il mio sangue. Con il mio fiato, la mia devozione a te.